Pane Kojka. Ciao a tutte le persone in ascolto, ci presentiamo, noi siamo Camera Anecoica, vi spieghiamo un po' chi siamo. Camera Anecoica è un progetto che è stato originato da alcune persone a Cagliari che negli scorsi anni hanno iniziato ad organizzare degli eventi autogestiti. Diciamo che il punto di partenza di questi eventi è stato uno spirito di condivisione e di autogestione. E Camera Anecoica vorrebbe diventare appunto un'occasione concreta per realizzarla. Diciamo che partendo da un interesse comune per la musica, quello che ci spinge soprattutto è la necessità di avere una partecipazione attiva. Questa partecipazione attiva vorremmo fosse il motore principale del progetto. Per questo motivo invitiamo tutte le persone che sono in ascolto oggi, che spero siano tantissime, a mandare un mix o comunque a farci qualsiasi proposta attinente a questo progetto. Quello che ci teniamo a specificare è che non siamo spinti da un intento performativo o dimostrativo. Per noi avere uno spazio, in questo caso uno spazio virtuale come può essere quello di un mix registrato, ma anche lo spazio nel quale questi mix vengono concretamente registrati, vuole diventare un'occasione per intraprendere un percorso. Questo percorso ha come intento principale quello di sviluppare uno spirito comunitario, solidale, supportivo e autogestionario. Per questo motivo la nostra intenzione è dare spazio a chiunque, a tutte le persone che abbiano interesse nel mixing, e per questo motivo non è necessario avere assolutamente nessun tipo di capacità professionale, non è che devi suonare per forza in giro in tutto il mondo, anche perché noi siamo i primi che non suoniamo da nessuna parte. Quindi vorremmo un po' che queste situazioni appunto autogestite continuano a moltiplicarsi, perché vorremmo che un po' il mondo del DJing, del clubbing e comunque tutto quello che sta girando intorno a questa cosa cambiasse un po' rotta, perché spesso per tutto ciò che riguarda la musica, soprattutto quella elettronica, sta diventando tutto un grande evento, tutto un grande festival, e questa roba qua ovviamente contribuisce a deumanizzare chi suona e soprattutto demonizza anche l'errore, che è comunque una cosa umana, una cosa che succede durante i mix. Infatti se vi fate un giro in mezzo ai nostri mix comunque non troverete mai il mix perfetto, anche perché comunque siamo persone, cioè nel senso non possiamo essere perfette, e soprattutto riduce la musica a qualcosa che deve essere semplicemente e solo consumato. Ovviamente appunto tutto quello che riguarda la musica come qualcosa che va consumato va in opposizione invece a tutto quello che invece noi in cui crediamo, quindi la condivisione, l'autogestione, cosa che crediamo dovrebbe essere alla base del clubbing o quello che comunque riguarda produzione e usufruzione della musica. Iniziamo ora con un mix, ci sarò io, Person. Spero la musica che ho selezionato vi piaccia. Ci sentiamo presto. We'll be right back. خوف الانفلوس بس عرضي مرضي صارت تتملك وكسيرة الشرطي عندي هالمبدأ بس عرضي أرضي مصري مصري بغضة بالقصري شو هالسيجارة دي راسي وك عربي صعب انه نرضي روح السيجارة شي شايف القروي قاعد من الحراري انا بالدون بشتون ولا بخسر كيف اجيلك بفر على دفر تفاصيل كشون حذر بذر كن مستير ده مين الاشطر فينا بالدون دينا مين بتصور انت مين يعد على مين بتعور تفاصيل كش انا فيدك كش انا فيدك خال انا عارف الشغل انا ولا شو بسوي كل فاتوك على ديل هذا قوي فات بس علشان مين داوي شوف شو مسارت انا اول داوي داوي فاش بين حكمي فاش مناوي نفوت عالدبل بكتب بلدي انا بس سندي ما بتو ما بسيب انا كينج شو مغيب ولا بدي غوص وقت ولا طيرات ولا بدي حط حق على مين وقت خطة بسكون بس لو استكلم ما استبدو سيب الامور ما لفها بدو وقت بتخرجنا وانتو سنفور ولو عطيني كسيت وقت انك كسيت وانسيت اللي فات وانا صدقت انا بكتب بشتب انا بخسر كيف اجيلك بفطر على دفتر تفاصيل كش وانا حذر فلتر كن مستيري ده مين الاشطر فينا بالطب دينا مين بتصر انت مين ناض على مين بتعور تفاصيل كش انا فيدك كش انا فيدك خال انا عارف الدور cynical habits, spaced in a closet, hateful of coolness, do grip mics and invite you to view this, but it's huge if you trip and refuse to remain in shrewdness, in a booth, in a rage polluted from the violence and charms of acute hits, to this brain that you pick for the sequence of words and music. I'm throwing bricks, so far away from these bitches, pull me back to this. Mostly snake eyes. Question, mad an impression, stubborn the naked flames. The greatest days when I need rebirth, but I hate the change. The rider in an ancient crew, I'm back like I'm facing away from you. In a vortex, chilling all dressed up, still groping this girl in a ball dress. Cassettes in a bag of seeds, have a week to finish them till they answer me. For the pain of a bad disease, in a circus, hid in search of a place to research this nervous wordplay. Celebrate now like your birthday, cause I'm here in the worst way, the worst way. We'll be right back. them in a bed. What them a talk and what them a say? Me not understand that I'm in a jail. What them a do and what them a think me say? People know I'm no freedom, them a lock up everything. A beard's operation, you know what life for them a bring. The judgment a come on, them still a talking. Oja protect you, I and I, cause you're the holy king. Some me sing against the wrong system. Them no got no vision, see them a spiritually blind. Can't hold for them a fake, can't hold for them a bad minor. The world say me burn a fire upon all the wicked man. Me burn down Babylon, like me burn the marijuana. When me friend them burn the wall, me say me burn them all. And hear them all go fall, say Jack one kill them all. Blaze up the fire, go burn them all. Hey Mr. Babylon, me know your plan no matter on. You try to hold me down, got me off, it's the stronger. Dep on the back of field, well me no have no fear. Keep on walking in the street, say we not go take defeat. Don't try to hold me down, got me off, it's the stronger. Dep on the back of field, well me no have no fear. Keep on walking in the street, say we not go take defeat. Say we got to live right up. Well, me no need no fighter. Me no matter if you're black or white. Me no matter if you're white. Kawala, we are one, so we have to stay united. The wicked them are go run, now when the Rasta man a come. The one fi see me down, no see my body they pan the run. Just listen to my message and my sound original. Come now fi tell you this, you're on this mighty version. We burn down Babylon, like you say me burn them all. Mackie and salt fish with a supermarket. overseer oversaw the walking of the plank. In your overdraft, see the inner workings of the bank. The dirty stank of England. Swell up eye and eye glance. Filthiness use the water we drown in to wash our hands. Lungs filled to capacity. The overbearing lie of an empire's chastity. Unfuckable in. But see your falsities and how it crumble. The wet patch now bubbles and is threatening to burst. Lust spilling, minerals pillaged in the name of a sacred earth. But ocean is sure to keep quiet as Adam and Eve's village gets burned. Burn it down, fireball. For all the salt water we had to lick. They never guessed we'd wrestle Poseidon and lick Trident with its own stick. Ha ha. A three-pronged truncheon, a Trojan horse in a yard mix. Shango spins his axe in wisps amongst the bayou's mists. Mr. Captain, watch where you're floating before it's too late. The odds you use for when his own is so much they can't take. Your stronghold is rotting, old world hoping it break. Decorated chest with comfort, not no choking under the water weight. A tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, qui è MGH ai controlli, nella sede di Camera Necoica, web radio cagliaritana. Spero di divertirvi un po' nella prossima oretta.

Tengo la pata. shrink, no, Zikako. Oh my god, no, fair follow. Wanna be like me, where they fair follow. I'm like desert, more hot, more women, fairly, fairly, yellow, that one in the way, I'm a dog. Thomas, what have you come drop? I will move around. Their mother, when they hear my music, that's when they know they wanna bounce. Hey, Frank, attack! Move belly, bounce, move belly, bounce. Rimi wi mo ti mo gidi ga o Maki ti kon mo dele for speaker Condition ti mo wa yi critical In the club, no ti son no money true Pele mo style gang, gemma kumi mi o boy Party after party, I'm burning no time Cause see any time, mo shelly, fami wa kori In the club, no ti son no money true Pele mo style gang, gemma kumi mi o boy Party after party, I'm burning no time Cause see any time, mo shelly, fami wa kori In the club, no ti son no money true Pele mo style gang, gemma kumi mi o boy Party after party, I'm burning no time Cause see any time, mo shelly, fami wa kori Ooh. Don't. Seen on social media means that everybody has been warned. Are cold, but I'm the smiley G. Look at the gap in my teeth. Ha ha ha. Hey, bro, you're what one. If you don't like this, suck your shiny, bashy, bashy, brum. Allow it, I am the only. Cheki vile wako na mahitaji hakuna kutaja, hakuna kutaja. Nikikam kwa pitu najua tu nikanja. Cheki buda boss wasetu wana smoke bado kanja. Cheki buda boss na waple ndani ya uwanja. Yeah, yeah, atuchok, atuchok wase bado wana kamtu tunawapo, tunawachok. Yeah, she gonna a bad sister na makila. Race up the ends anaenda kuna ku. Buddha boss, this is the end. Kama let you back. Tuko billionaires, kama Tony Stark. Buddha boss, wame kwama tu, wako stack. Yeah, yeah, yeah, yeah. Perdinha vem, bota, vai, vai no soca, soca. Perdinha vem, soca, vai, vai no bota, bota, vem, bota, bota, vai, vai no soca, soca, vem, bota, bota, vai, vai no soca. Put it down. tensión, me tensión, me tensión, me tensión.